Then I went down into the basement where my friend, the maniac, busies himself with his electronic graffiti. Finally, his language touches me because he talks to that part of us which insists on drawing profiles on prison walls. In that moment, poetry will be made by everyone, and there will be emus in the zone. Inizia ora Music for You. Contributi elettronici, rock ed indipendenti per una nuova esperienza di suono. Music for Youth, contenitore sonoro di sperimentazione musicale strutturato per l'amplificazione elettronica. Radio Sherwood 97800, Radio Sonora 102200, bentornati con noi Music for Youth anche questa settimana per i palati più fini e anche non. Buonasera. Soprattutto per i non. Buonasera Alvise Favotto. Buonasera Daniele Terzariol, è bello vederti, ancora vivi, nonostante tutto. Stranamente la calura estiva che attanaglia questo studio. Sì, abbiamo ridotti come gli aschi in estate, esatto, però continuiamo. Piangiamo tantissimo, arriverà prima o poi un nuovo inverno per noi. Noi attendiamo festosamente la fiera di San Donà, ve lo diciamo. Sappiate anche che andiamo in ferie per il mese di agosto, per cui avete un mese per riprendervi dalle nostre scorribande radiofoniche. Sì, in questo mese, cioè, ci sono delle ottime cure disintossicanti, Amy Winehouse ce ne dà sonori esempi e ci ricade periodicamente. Noi però vi auguriamo di essere più prolifici da questo punto di vista. Noi ce ne andiamo in Norvegia, se volete farvi gli affaracci nostri. Sì, sì, ma torniamo per metà agosto. Ci sono anche i nostri ospiti che sembrano contenti al fatto che noi andiamo in Norvegia. Sì, ma loro segretamente sperano che non torneremo, che non mai più. Saremo divorati dagli orsi. Sappiate che abbiamo anche da prendere un aereo tipo in una tratta di 20 minuti a eliche. Potremo anche precipitare, dipende da quello che vorrà il comandante, ma tanto saremo io, te e lui. Esatto. E il suo istinto suicida. E quando pezzi di noi faranno parte di cestini per l'orso Yogi, a questo punto questo programma sarà condotto da gente molto più seria. Esatto. Finalmente, no? Potremmo, visto che si parla di gente seria, assumiamo una chiave un po' acustica, anche se non presenteremo tracce molto acustiche, ma è la dimensione alla quale guardano gli organizzatori di Sesto Unplugged. Buonasera, ciao Lucio. Buonasera. Ciao a tutti. Come avete anticipato, io sono uno degli organizzatori di Sesto Unplugged 2010 e anche di 5 anni precedenti, di 4 anni precedenti, perché questa è la quinta edizione. Sì, questa è la quinta edizione e prima ancora, questa è una rassegna musicale che si perpetua ormai da 30 anni e solo negli ultimi 5 anni ha assunto una veste diversa, una caratteristica diversa, un progetto diverso, si basa su un progetto diverso. Diciamo, si può riassumere con lo slogan: quando il luogo determina la musica. Esatto. È una cosa un po' impegnativa. Sì, per i nostri cervelli poco fini e smerigliati con i peggiori aggeggi dell'IKEA, sappi che ci metteremo, presumo, tutta la puntata per capire questo concetto, ma abbiamo un'ora apposta. Eccoci, allora sono qua, io non intendevo, dicevo per il fatto di organizzarla, perché quando cominciamo a metterci, ad accordarci direttamente con i musicisti, la cosa diventa complessa, perché sappiamo che i VIP spesso fanno le bizze e quindi poco si adeguano alle esigenze, diciamo, di un luogo come il nostro, magari, che forse andrebbe bene per altre cose, e noi invece l'abbiamo fatto andare ancora meglio per queste. Vogliamo proprio cominciare con il luogo. La peculiarità di questo festival è che si svolge dove? Allora, si svolge a Sesto Arreghena e si svolge nel sagrato dell'abbazia benedettina di Santa Maria, che è un meraviglioso edificio sacro sorto intorno all'VIII secolo, e dove, diciamo, si sono unite tre religioni: quelle slave, che popolavano anticamente quelle zone, e quelle cristiane, ormai decimate dall'arrivo dei barbari in quel periodo, e quelle dei Longobardi che hanno preso possesso di quel luogo, costruendo appunto questa meravigliosa abbazia che ancora oggi risplende con meravigliosi dipinti e un'architettura fantastica, diciamo condensando il tutto in un'unica religione, soprattutto in un unico ordine che è quello benedettino. Poi da notare che tutti intorno ci sono 10 ettari di prato stabile, presentano le coltivazioni come si coltivava nel 700, nell'800, ancora con i noci, e tutto allo stato naturale, diciamo. Poi ne avrei ancora, ma magari rischio tranquillo di stufare, forse è meglio andare nello specifico. Ah beh, cioè, per cui signor Favotto, tu che ignori completamente la dimensione storica dei luoghi. Il signor Favotto l'ho visto un po' perplesso, no? Il signor Favotto era qui che prendeva appunti. Io mi sono fermato a Longobardi. Stavo stenografando. Che non è che la squadra subito... quella lì di Fantozzi, la Longobarda. La Longobarda, esattamente. Non è di Fantozzi, è di chi è? Nino Banfi. È vero, scusa. Sei più esperto tu in questa cosa. No, vabbè, insomma. No, sesto Unplugged. Ho avuto tra l'altro l'occasione adesso di visitarla. Lo dico sinceramente, questo sarà il primo anno in cui verrò al vostro festival. Ne abbiamo sempre sentito parlare. Ho avuto modo di vederli. Daniele c'è già stato, è stato contentissimo. Ho visto l'abbazia in tempi non sospetti, se si può dire, e è un posto veramente meraviglioso. Sì, e credo anche dal punto di vista degli artisti, suonare in una location del genere deve essere qualcosa di a parte sfidante, secondo me, perché per problemi di acustica, la platea, eccetera, ma anche forse di dimensione, di intimità, penso io. Naturalmente questo progetto, che è arrivato al quinto anno, è imperniato naturalmente sulla valorizzazione di questo luogo, che non per contrariarti, ma ha un'acustica meravigliosa, perché sì, è chiuso da mura tutto intorno, e quindi ben si presta a questo genere di spettacoli. Però questo slogan significa chiedere agli artisti che verranno lì a esibirsi di spogliare la loro musica e di farcela ascoltare come quando loro l'hanno concepita, con pochi strumenti, magari con una sola chitarra, un solo pianoforte. Oppure, naturalmente, questa è un po' una specie di utopia, anche perché certi brani sono stati concepiti proprio anche con l'amplificatore, con determinate sonorità, con particolari effetti, per cui un determinato brano lo si deve far ascoltare in quella maniera lì. Ma chiediamo che portino solo l'essenziale, proprio per rispettare in termini di volume quello che è l'ambiente, perché non deve superare un certo grado di decibel. Perché sia abbastanza raccolto, un po' anche per noi, perché siamo curiosi di sentire questi brani come sono stati composti all'inizio, e quindi si concentra le nostre richieste ai musicisti si concentrano intorno a queste prerogative. Verificheremo cosa sarà in grado di fare Belly Drum Boy, perché io non riesco a immaginarmelo molto molto acustico. Io o anche sì. Sai chi sì. Non riesco a immaginarmi acustici? I Black Rebel Motorcycle Club. Altresì detto il nostro compagno di bagno. Sì, il nostro compagno di bagno, che l'avevamo già detto durante una delle primissime puntate di Music for Youth, quando noi ancora non avevamo il fuoco nelle caverne. Però si ascoltava i Black Rebel e si frequentava gli stessi bagni del New Age. Sì, infatti. E Alvise ci siamo trovati al bagno con il cantante, non lo si sapeva. Noi non l'abbiamo proprio riconosciuto, abbiamo fatto dei commenti sul suo giubbotto. Sì. Non su altro. Sì, no, ma perché si anche sapeva... perché era di spalle, cosa commenti. Però si poteva che più o meno stavamo usando lo stesso buco per espletare. Sì. Vabbè, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, insomma, alla fine... usate la fantasia in questi momenti. Capitevelo da voi. Salta sul palco e gli faccio a Favotto. Il cantante di Black Rebel Motorcycle Club. La Peppa che giubbotto. Sì, infatti. Cioè, un giubbotto veramente notevolissimo. Complimenti al cantante. Uno dei migliori concerti che io e te abbiamo visto al New Age. A parte uno dei migliori bagni, uno dei migliori giubbotti. Sì, e si pulisce da solo. Esatto. Come diceva uno dei migliori spot dei forni. Esatto. E mentre si cucinano pizzette come queste, noi andiamo a sentirci Mama Told Me Better. Esatto, è il nuovo singolo estratto dall'ultimo album Beat the Devil's Tattoo, che deve il suo titolo a una lettura che il cantante di Black Rebel Motorcycle Club stava affrontando quando in bagno mentre per l'appunto leggeva Edgar Allan Poe. Eh beh, caspita, vedi? Edgar Allan Poe, uno dei più celebri scrittori noir che il nostro universo conosca. Noi potevamo mettere una canzone tratta da Howl, che magari potevano suonare la Sexton Plague, visto che era un CD abbastanza blues lento. No, col cacchio, mettiamo l'ultimo singolo estratto dal loro ultimo album, come abbiamo detto, Beat the Devil's Tattoo. È uscito da poco, possiamo anche dirlo. Sì, se vuoi fargli un fischio tu, che hai tutte le email della gente bene, fagli un fischio e chiedigli se il prossimo anno gli venire a suonare al Sesto Unplugged. Sì, e digli che è col catering, però sì, portiamo un cracker o qualcosa. Esatto. Visto che anche il catering penso andrà spogliato. Margarina subito, fette biscottate e via prezzemolo. E via prezzemolo, mentre in sottofondo, intanto, comincia a partire Mamma Taught Me Better. Noi ringraziamo gli ascoltatori di Music for Youth e vi ricordiamo che questa sera ascoltatori abbiamo... vi stiamo ringraziando seriamente per Sesto Unplugged con noi. Questa è Music for Youth, Radio Sherwood 178, Radio Sandona 102.2. We'll be right back. Black Rebel Motorcycle Club, questa era Mama Touch Me Better dall'ultimo album Beat the Devil's Tattoo. Bentornati, Radio Sandona 102.200, Radio Sherwood 97.800. Questa è Music for Youth. Favotto che mi guardi con, con gli occhi sbarluccicanti. No, pensavo a Mamma mi pensava meglio. Chissà perché. Si è fatta due conti, voglio dire. Infatti. Portato avanti le pratiche. Torniamo come i migliori commercialisti che sono sotto di un piano nel nostro condominio, dove registriamo. E anche i notai che sono sopra. Siamo completissimi. Passiamo a parlare di nuovo un po' di Sesto Unplugged. Cominciamo anche a trattare un po' degli artisti che suoneranno. E Alvise, che ha qualche domanda per i nostri ospiti. Sì, grazie per avermi ceduto la parola, Esimio. Nulla. E prima ci accennavi al fatto che negli ultimi 5 anni poi il festival ha cambiato un po' il suo corso, in un certo senso. Ci vuoi dire un po' cosa è cambiato e qual è il nuovo approccio all'organizzazione? Sì, prima si puntava su artisti sempre di fama e di valore internazionale. Abbiamo voluto cambiare perché abbiamo voluto avvicinarci di più ai giovani. Ed è per questo che vi abbiamo raccattato. Eccoci. Perché qua, se guardate la set lì, la lineup degli ultimi 5 anni, trovate tutta gente che noi potremmo potenzialmente mettere durante questo programma. Un nome a caso, Calexico. Tutta gente che noi potremmo potenzialmente mettere e che comunque non ci considera, però. Vabbè, torniamo a Lucio, avanti. Sì, abbiamo pensato di rivolgerci ai giovani perché forse facendoli venire a Sesto a Regina, a questi concerti, e vedendosi intorno tutte queste bellezze, magari possono diventare i turisti del futuro un domani. E siccome arriva molto lontano, noi speriamo in turisti e in visite che ci arrivano da molto lontano. E tutto questo progetto pensiamo che abbia un valore strategico nel tempo e che possa, appunto, come ripeto, trasformare giovani che vengono nel Sagrato a vedere questi concerti in turisti del futuro. Questo è un po' l'idea che hanno. Il piano quinquennale come i migliori governi Trotsky. Hai capito? No. C'è qualcosa di subito, lo sapevo. No, io siamo perfidi. Sì, no, qualcosa di molto ben congegnato. Noi vi facciamo i complimenti. Tra l'altro, sì, che non lo fate capire. No, ma sottovoce posso dirvi che abbiamo una passione sfrenata per il rock, si può dire? Sì, o no? Beh, ecco, sì, perché, sì, cioè, noi abbiamo dato un bel cappello, però insomma sotto c'è anche questo. Dai, tutti molto pacati, sì. Questa dimensione dell'abbazia, tutto il resto, però. Siccome abbiamo molti contatti anche con personalità importanti, cerchiamo di darci un contegno, dobbiamo farlo per questo. Mi dovete dare un tono, no? Mica come noi, che rimaniamo in questo sgabuzzino e poi dalle voci magari sembra che siamo anche migliori. No, noi sottovoce però possiamo dirvi che abbiamo uno sfrenato amore per il ballo liscio e per l'orchestra I Caramel. Esatto. Potremmo fare questa domanda se la stessa passione è anche di Belly Drown Boy. Tra l'altro, se riuscite a rubargli il suo berretto di lana con il quale suona sempre in tutte le stagioni e ce lo regalate, noi lo useremo come una sorta di nuova divinità nella nostra cameretta. Sì, sì, o qui in radio. No, qui in radio un totem direttamente, facciamo passare un fascio di luce attraverso. Un bel neon. Occhio che però non è un purificatore. Io ve lo dico, Belly Drown Boy, ok, la dimensione acustica e tutto il resto. Nell'ultimo concerto si è parecchio incacchiato, non mi ricordo per quale motivo. Per il cappello? No, per un'altra questione. Ha preso, se n'è andato via. Ehi. Per cui fategli firmare tutte le clausole possibili, immaginabili. State ben attenti. Io so che un'altra caratteristica è proprio quella di contattare direttamente, se è possibile, naturalmente, attraverso direttamente la sua produzione e gli artisti, come ho detto prima, per riuscire ad avere un concerto ad hoc per Sesto. E so che portargli via il cappello sarà molto difficile, perché sì, è gelosissimo, sì. Quindi io non so se ci riusciremo. O perché è attaccato con l'attac. No, ma guarda, è estate, il cappello è di lana, non serve l'attac per attaccarsi. Immaginavo. Perché Lucio, ci dicevi che questo Belly Drown Boy verrà assistito durante il concerto. Ed è questa la particolarità. Noi siamo riusciti a farlo venire a Sesto soltanto con il pianoforte, con la chitarra e naturalmente con la voce, e sarà accompagnato da 3 bravissime ragazze che suonano strumenti ad arco e a cui è pervenuto dall'Inghilterra, sono pervenute le partiture, le stanno provando in questi giorni, e appunto lo accompagneranno in una formazione inedita e in un arrangiamento nuovissimo di cui sappiamo poco anche noi, quindi una novità assoluta e un unplugged al massimo. Proprio caso di dire che ce lo estrae dal cappello, battuta, sì, pessima, proprio brutta. Vabbè. cioè, ma di quelle che non senti neanche in oratorio. Sì, sì, ma infatti adesso vado di là e... un orrore indegno. Vado di là e mi butto nel water abbracciato all'anitra vicino. Un ignavo. Ecco, si parlava di questo Belly Drum Boy. Sì. Noi invece presenteremo una traccia presa forse dal suo, da un album che a me è piaciuto parecchio. L'anno non me lo ricordo, comunque era nel 98. Telefonateci e ponete fine a questi momenti di ignoranza gratuita. E il pezzo si chiama Disillusion, dove c'è lui che corre in un video, fa il taxi a piedi, cioè si carica la gente sulle spalle, e a un certo punto viene anche rinchiuso con una ganascia, tipo di quelle dei taxi, da un poliziotto. Fatti caccia, tra l'altro. Lui famoso anche per aver curato la colonna sonora di About a Boy. È uno dei pochi film in cui Hugh Grant ha dei capelli decenti, non con una riga in mezzo, e c'è un bambino che ha un cappello che è ugualissimo a quello di Belly Drum Boy. Forse è l'unico che è riuscito a rubargli. E lì due domande ce le facciamo. Il film About a Boy è preso da un romanzo di Alvise Favotto, Nick Corby. Ah sì, hai ragione. Quello che non buttiamoci giù. È vero. E anche quello là degli Febbre anni 90 migliori, e la classifica quella lì dei 10 libri, esatto. Cioè dei 10 CD, dal quale molte radio hanno rubato il format per il programma. Potremmo rubarlo anche noi. Cosa vuoi che rubiamo? Non sei neanche capace di rubare me al mercato. Due etti di crudo al villa, fa una cortesia. Mentre io prendo il nostro MP3 e carico la canzone, sì. Forse tu puoi anche presentarla. Benissimo. E allora, gentili ascoltatori di Radio Sherwood nei suoi 97.8 e di Radio Sandonà nei suoi 102.200, questo è Belly Drum Boy, questa è Disillusion e noi siamo su Music for Youth. You created your own illusion, fueled by an image of me. Well, I couldn't stand your side, wouldn't be right. A picture that I just don't see. Why do you have to make it so complicated? Just be beautiful. I don't wanna stifle your fly. I didn't mean to fall in love. Always in pursuit of the perfect people. Oh, when I can see it shows. Well, that's just an innocence in you. I wanna ring out. I know it could be beautiful. But I don't want a part of some situation. I don't want to be in that boat. I don't want to stifle your fly. I didn't mean to fall in love. sulle frequenze di Music for Youth. Questo era Belly Drum Boy Disillusion, da il suo miglior album del 1998. Forse ditecelo, come potete dircelo, attraverso tutti i contatti che il buon Favotto, come ogni settimana, vi ricapitolerà con la sua baggianata. Allora, l'estate continua imperterrita e calorosa. Music for Youth Polo Nord. Se ci chiamate allo 0421 560993, Daniele Terzariol, qui presente, si veste da pinguino imperatore. E ripeto, pinguino imperatore, quindi anche la variante che ha le cosette gialle sul collo. Viene a casa vostra e simula un inverno artico. La volpe artica lo faccio io se mi chiamate, se mi faxate allo 0421 560994. Vi costruiamo un igloo in giardino in cambio di una mail a radio@radiosandona.it. Poi, quando il vostro piccolo iceberg è ormai arredato, e qui ci ricolleghiamo alla famosa frase "non uscire dal tunnel, arredalo", a questo punto potete entrare di nuovo in internet, perché ci siete già entrati quando ci avete mandato la mail, e entrare nel nostro blog che vi dice Daniele, musicforyouth.wordpress.com. un Daniele basito, tra l'altro. Sì, sì, perché non puoi fare il pinguino imperatore? E poi ricordati, capito, che se esci dal tunnel, sì, o se guardi verso il fondo, la luce non è l'uscita ma è un treno. Esatto. Ecco, sei contento? Sì, di solito ti avvertono perché c'è un clacson, però anche no. A noi non ci avvertirebbero mai, anzi sì, telefonerebbero al macchinista dicendo non suonare. Esatto, sì sì, no. Al peggio, macchinista, iscriviti al nostro gruppo in Facebook, che ormai conta 2000 e rotte persone. Sì, non vi capiamo, gente, veramente. Immotivate, una dietro l'altra. Sì, non capiamo, non vi capiamo. Oltre a noi due che ci siamo autoiscritti, il gruppo è Music for Youth, YOUTH per i non anglofoni, non ci stancheremo mai di dirlo. Music for Youth on air, lo cercate, perché c'è anche gente che scrive Music for Youth e cerca di emularci, ma non ci prenderete mai, ci dispiace. La nostra serie perfetta di coltelli, come diceva Chef Tony, è inimitabile. Inimitabile come i Black Keys. Beh sì. Due, sono in due, per cui potrebbero prendere il nostro posto. Sì, sì, qui sì, in radio. Beh, lo farebbero anche con quella dignità che noi non abbiamo. Anche perché loro arrivano da 5 album, ne hanno prodotto un sesto che si chiama Brothers. Questa è la nostra scommessa della settimana, come ogni settimana noi abbiamo una scommessa. Sì, questi 6 album, cioè speriamo che ottengano il meritato successo con quest'album, perché gli ultimi 5, almeno in Europa, sono passati abbastanza in sordina, però loro fanno un rock che è convincente, secondo me. Sì, sì, a noi piace, per cui possiamo anche andare ad ascoltarcelo. Sì, sì, ma possiamo anche dargli il nostro ventilatore. Prendetevi questo ventilatore, Black Keys, noi andiamo ad ascoltarci Tighten Up, che è il primo estratto da Brothers, il loro ultimo album, Music for Youth. Cominciamo con l'ascolto. Prego. So prezzo giusto è ok per le chiavi nere. Combo statunitense che ci ha regalato questa Titan Up, sempre sui 97.8 di Radio Sherwood e sui 102.2 di Radio Sandonà. Noi continuiamo a parlare di Sesto Unplugged con il nostro ospite di questa sera, che ringraziamo e non finiremo mai di ringraziare per essere qui con noi. E dunque, andiamo a svelare ai nostri ascoltatori chi saranno gli ospiti di quest'anno. Ecco, allora io comincerei dal primo concerto che si terrà sabato 24 luglio. Protagonisti saranno due, Xavier Rudd e Tinkara. Poi il giorno successivo, domenica 25 luglio, ci sarà Badly Drawn Boy in nostra compagnia. Io Favotto e il trio d'archi. Ecco, benissimo. Cioè, io e Terzariol suoniamo ambivalentemente il campanello o anche il citofono. O il triangolo. Il triangolo, però. È mobile, quello della macchina. Potrebbe essere un nuovo modo di fare Unplugged. Sì. Potremmo sperimentarlo magari in una delle prossime edizioni. L'importante è rubare il cappellino a Betty Drumboy. Esatto. Noi ci avviciniamo solo per quello. Sì. Rubiamo il cappellino e sostituiamoci un triangolo della macchina. O gli mettiamo il cono, quelli per le autostrade, in testa. Se ne accorgerà, no, vabbè, non importa. Andiamo avanti con questo elenco delle date. Andiamo avanti e passiamo a sabato 7 agosto. E ci sarà un doppio incontro con Paolo Benvenu più Endolso The Trees. E poi per finire la rassegna, appunto, Sesto Unplugged 2010 con i Tindersticks l'8 agosto. Questo è il programma. Tindersticks, che ascolteremo anche più tardi, da una casa che ha. È la 4AD Records che a noi piace un sacco e abbiamo sempre messo, qua ormai sono di casa, abbiamo messo i National e tutta un'altra serie di bei personaggi che vengono fuori della 4AD. Dateci anche due soldi, perché più di questa promozione non possiamo, sappiamo cosa darvi, cosa avete, anche le magliette ma che abbiamo su, ma dateci anche degli scatoloni di detersivo, va bene tutto, o degli scatoloni, noi ci dormiamo dentro. Esatto. Secondo te Xavier Rudd suona anche gli scatoloni, perché, oltre a quei 25 strumenti che si porta costantemente dietro, perché adesso tu mi dirai quanti strumenti suona, sono veramente tanti. Sì, sono tanti, ma in particolare ne suona uno veramente, se posso ripetermi, particolare, nel senso che essendo molto sensibile, essendo lui australiano ed essendo molto sensibile alla causa degli aborigeni, ha adottato sul palco uno dei loro strumenti, non mi fate dire il nome perché è difficile, ma sono dei corni lunghissimi, lui ne adopera tre, che producono un suono molto particolare e grave. Questa è una delle sue caratteristiche. Naturalmente è una persona che suona moltissimi strumenti, tra cui la chitarra e quella chitarra che si suona con quel cilindretto di metallo che produce un suono particolare. Per fare le slide, tipo. Esattamente. Guarda, hai davanti due grandi punti di domanda che respirano, io e Daniele. A pieni polmoni. E si gioca la dimensione acustica dei surfisti insieme a quel grande simpaticone di Jack Johnson. Beh sì, Xavier Rudd, però, se posso permettermi una divagazione, come ci diceva giustamente, è molto più radicato nella tradizione popolare e nella musica aborigena, sì. Mentre Jack Johnson è più legato ad una differente tradizione, magari radici hawaiane per certi versi, però tipo la strumentazione usata è molto differente. Sì, in realtà Xavier Rudd ha una conoscenza molto più approfondita della strumentazione. E Xavier Rudd apprezza molto le percussioni. Vedremo cosa sarà capace di fare, o ditecelo voi ascoltatori, che ovviamente prenderete la vostra carretta e andrete a Sesto Unplugged se avete ascoltato questa trasmissione, anche se no vi ci spediamo noi a calci. Sì. Era una minaccia. Non ci avete mai visti in faccia, quindi potremmo essere anche molto grossi e muscolosi. Esatto, pompatissimi. Sì. Andiamo ad ascoltarci Xavier Rudd. Beh, io direi proprio di sì. Noi abbiamo scelto una traccia parecchio slow, si chiama Generation Fade, non chiedetemi l'album. Potete sempre dircelo voi dopo che siete andati a ascoltare il concerto. Su Music for Youth, Radio Sandonà 102.2, Radio Sherwood 102.200, questo è Xavier Rudd e questa è Generation Fade. It was a movement of the people, like many times before, who stood up the peace and sat down for war. They ran from the ways, the old school ways, fight those different killed to be saved. Well, these theories came straight from their minds, their hearts left trembling deep down inside. Well, I know, now know, now know, well, I know what lies beneath. Cause now we see these views may change if we all walk this way. The youth steer the ship as this generation fades. These views may change if we all walk this way. The youth steer the ship as this generation fades. Let's move to the middle, embrace one and all. See the beauty through the skin of the aboriginal. If your friend has fear, then help him to heal. Show him the difference gives this world its appeal. Well, we are so lucky today. This earth as our playground, it's culture to amaze. Well, I know, now know, I know, and I know what lies beneath. Cause now we see these views may change if we all walk this way. The youth steer the ship as this generation fades. May change if we all walk this way. The youth steer the ship as this generation fades. These views may change if we all walk this way. The youth steer the ship as this generation fades. These views may change if we all walk this way. The youth steer the ship as this generation fades. Generation Fade di Xavier Rudd. Prima avevo dato i numeri, a quanto pare ho detto per due volte 102 200, infatti fa voto con una faccia da squinternato, mi fa: cosa stai dicendo, cosa stai dicendo. In effetti avevo detto una boiata, sì. Eravamo su, anzi siamo su Radio Sandona 102.2, Radio Sharewood 97.8, sto per dire le cose chiare, sì, come stanno. Daniele purtroppo ogni tanto ricorda Franti del libro Cuore, io invece sono Garrone, quello grosso che corregge, quello grosso ma buono che corregge. Ascolta, ma buono. Sai chi è un altro che potrebbe suonare acusticamente a Sesto Regena? Jonsi dei Sigur Rós. Beh, di Jonsi abbiamo già parlato in svariate puntate precedenti, sì, e sì, quindi sì. Ormai noi lo consideriamo come il classico cugino dal Belgio. Sì, è il cugino di campagna, anche perché lo vedo in una dimensione parecchio bucolica quando è con i Sigur Rós. Sì, no? Corre nudo nelle copertine dei suoi CD. Sì, di Meo Spilum Vio Eo Endelost, o quel cavolo che era. Sì, perché poi cosa canti in Opelandi che ci cambi tutti i programmi, a noi non sapevo neanche come pronunciarlo. Sì, infatti, anche perché è una lingua che ti inventi tu, per cui voglio dire, se alquanto autoreferenziale quanto me. A noi piaci, però quello è il grande dramma. A noi piace perché con i Sigur Rós hai fatto bellissime cose. Sì. E non siamo potuti venire ad ascoltare qualche secolo fa al Giardino dei Boboli a Firenze e abbiamo pianto riempiendo fazzoletti. Classiche lacrime di coccodrillo. Daniele ride su riempiendo fazzoletti, però non facciamoci domande. Lui, tra l'altro, Jonsi, era in tour, e un tour che ha toccato anche l'Italia perché è stato recentemente sì. a Milano. Jonsi, che appunto si propone come con questo suo primo lavoro solista, che sembra alquanto convincente. Finalmente decide di parlare in inglese, il che è utile perché comunque almeno non riusciamo a capire il senso di quello che stai dicendo, e lo fa in, con dei toni che sono abbastanza diversi dalle sì. sonorità a cui eravamo abituati ai tempi dei Sigur Rós. Perché sai che se alcune tracce, se gli fai un giusto remix, le puoi anche mettere sul dance floor, secondo me. Beh, sì, assolutamente, e questa è quella che stiamo per andare a sentire, che è Godo. È una di queste. Sì, esatto. E la famosa traccia... Godo qui è Bodo, dove noi dovevamo fare Bodo, dove noi dovevamo fare scalo in Norvegia per andare a Lofoten. Esatto, dove arriveremo a essere tritati e a far parte di macinato per orsi. Esatto. A quel punto lì questa Godo ha un piglio assolutamente da balera. E quindi andiamo a ce l'ascoltare. È anche stata, e non è la prima, e ci ricolleghiamo a Badly Drawn Boy, colonna sonora di un recente cartone animato in cui un bambino impara a guidare un drago, e quindi per tutti questi motivi noi abbiamo deciso di farvelo ascoltare. E quindi andiamocela ad ascoltare, è già partita in sottofondo, diamo i numeri giusti. Godiamo. Radio Sherwood 97 800, fa volto. Sì. Radio Sadonà 102.2. Per i non anglofoni. 102.2. Questa è Music for Youth e questo è Jonesy. Go, do. Die and call. John C. sui 102.2 di Radio Sandonai, sui 97.8 di Sherwood, ancora in vostra compagnia, per vostra sfortuna, Music for Youth con me, Daniele, e con Sesto Unplugged. Abbiamo parlato del primo ospite, non in ordine di tempo forse, ma Badly Drawn Boy, stiamo parlando ora di chi salirà sul palco. Allora, abbiamo detto che sabato 7 agosto saliranno due artisti sul palco, Paolo Benvenu e Endolso De Trisi. Allora, il primo arriva da una musica sperimentale e diciamo che a Sesto presenterà invece un programma più melodico e più intimo, con l'introduzione, e questa è una caratteristica proprio del concerto che si terrà solo a Sesto a Regina, di una sezione di fiati più un diciamo più un set particolare, con una strumentazione acustica. E la stessa cosa farà il gruppo Endolso De Trisi, che ammorbidirà molto i suoi toni aspri in un concerto particolarmente delicato, con l'introduzione che qui del pianoforte, del dulcimer, che è una specie di uno strumento particolare con delle corde percosse che usavano gli zigani per accompagnare i violini, i gresi. E dopo Endolso De Trisi, che è un gruppo, correggimi se sbaglio, di origine britannica, avrete qualcun altro dalla terra di Albione, qualcun altro che noi piace molto. Perché facciamo il collegamento Sherwood, Foresta d'Albione, Abbazia di Nottingham, Robin Hood, e da Nottingham vengono i Tindersticks, che sono gli ultimi ospiti di Sesto Unplugged. Esattamente, e con la loro musica particolare, con la loro musica sognante, sempre qui con Tony Cupi, e si esibiranno nelle loro composizioni, sempre qui arrangiate in maniera particolare, utilizzando anche un pianoforte a cosa che verrà insediato nel centro del palco, e accompagnerà le voci particolari di questo gruppo. Questo l'8 agosto è l'ultimo spettacolo di Sesto Unplugged 2010. Quindi noi andiamo anche ad ascoltarci un qualcosa dei Tindersticks, dal loro album che si chiama Falling Down a Mountain. Abbiamo estratto la traccia numero 5, che vi darà un esempio di chi sono questi Tindersticks, da casa discografica For AD Records. Tindersticks, esattamente, Tony Cupi, e musica molto introspettiva dal mio punto di vista, però che sa suscitare emozioni. Cupi, famoso difensore che attualmente è in Serie A. È in Serie A Cupi? Sì, ancora sì. Io pensavo fosse sepolto vivo da qualche parte. Da una betonata. Andiamo ad ascoltarci Tindersticks su RSD 102.2 Radio Show 97.8. Questa si chiama She Wrote Me Down. She wrote me like a train, like a hurtling steaming train, from the raging heavens to the fires below. She wrote me there and back again and there again. Like a pony, like a pony chasing that train, across the ripples of the surface of my dream. She rode me down like I was falling, and she rode me like a storm, like a sucking, brooding storm, struggling, straddled out, moaning, right, and she rode through the night, and she rode me, she rode me, she rode me. Thank you. myself to my reflection, lady said. And she rubbed me, she rubbed me, she rubbed me, she rubbed me, and she rubbed me. She Wrote Me Down dei Tindersticks su RSD 102.2 Radio Sherwood 97.800. Per vostra fortuna, le vostre orecchie, siamo arrivati in finale di puntata Music for Youth anche questa settimana. Non ci resta che salutare gli organizzatori di Sesto Unplugged e Lucio particolarmente. Lucio, che ci ora ricorda tutte le date. Sì, innanzitutto voglio anch'io ringraziare voi e il vostro pubblico per averci concesso questo spazio, però vorrei ringraziare anche coloro che ci sostengono, che sono la regione, la provincia, la fondazione Krupp e il comune. Desideravo ricordare ancora velocemente le date di Sesto Unplugged 2010, che sono sabato 24 luglio con Xavier Rad e Tinkara, e domenica 25 luglio con Badly Drown Boy e il trio d'archi Club Edas, e sabato 7 agosto Paolo Benvenu con And Also The Trees, e infine domenica 8 agosto con i Tindersticks. Ricordo anche che potete trovare maggiori informazioni sul nostro sito www.prosesto.org oppure sul MySpace, potete trovarlo digitando Sesto Unplugged. Grazie ancora. Perfetto, è stato perfettissimo. Mica come noi che siamo gente approssimativa. Cose che noi in mesi e mesi di trasmissione non sappiamo fare. Un minimo di puntualità terzario, noi non la sappiamo raggiungere. La nostra programmazione economica, ma più in generale di gestione di questo programma, è pressoché nulla. Valutiamo il nostro scostamento, per piacere. Va bene, tu che sei un economista. Parli a me, che al massimo so dirti che le canzoni dei GoFind, leggo da quanto dice la casa discografica, e ricordatelo quando domani mattina farai colazione, le canzoni dei GoFind sono come il rumore del latte quando cade sui cereali. E capisci perché va in sottofondo solo la canzone e non abbiamo più nulla da dire. Diteci se è vero, se la sensazione è più o meno la stessa. Esatto. Quando ascolterete l'ultimo album dei GoFind, che sono dei belgi, cogliamo sempre l'occasione per salutare i nostri parenti dal Belgio. Belgio, tra l'altro, patria del muesli, e qua finale circolare, secondo me. Tutto torna, corsi e ricorsi storici, come diceva un famoso filosofo. Chi era Giovanni Gentile? Ma cosa ce ne frega? Un programma radio di boiate, come stiamo a parlare di filosofia? No, beh, sicuro, comunque poteva essere Gentile, non credo fosse il Gabibbo. Non credo fosse Gentile il calciatore. No, quello sicuramente no. Magari anche sì, voglio dire. Vabbè, siccome tutto torna, lo chiediamo pure questo. Non abitiamoci su noi stessi. Chiama i parenti che chiedano in GoFind, visto che magari sono pure vicini di casa. L'album precedente di GoFind era un po' meglio di questo di adesso, per cui potete, quest'ultimo potete anche scartarlo, a parte la traccia che noi mettiamo, che è una buona forma di saluto, che è abbastanza tranquilla. Sì, si dice che i GoFind, con i proventi del primo album, abbiano comprato un set di nani da giardino. Davvero? Sì, e anche una Biancaneve e dei Cerbiatti, perché sono delle cose che nei giardini belgi piacciono particolarmente. Ah, pensavo perché li volessero andare a liberare lì vicino a Sesta Regena dall'abbazia. Beh, negli ettari di prato, secondo me troveranno la pace dei sensi, presumo. Soprattutto dei cerbiatti in cemento, secondo me possono piacere. E siccome noi abbiamo anche esaurito il purpurì delle nostre boiate settimanali, sì, e sappiate che il bidone dell'acqua qui in radio è scarico e non possiamo neanche bere, cioè abbiamo delle ugole veramente secche. Non notate come le nostre voci sono più sensuali oggi? Noi non ci resta che salutarvi ricordandomi il nostro gruppo in Facebook, Music for Youth YUTH per i non anglofoni, e musicforyouth.wordpress.com è il nostro blog. Ci trovate alla data di Badly Drawn Boy, se volete sventolare di lenzuoloni chiedendo a Badly dacci il cappellino ti prego, poi noi ce lo dividiamo a pezzettini con una forbice che Alvise si porta dietro. E ci trovate sicuramente questo sabato a Radio Sherwood. A Radio Sherwood noi trasmetteremo in diretta dal loro bunker prima del concerto dei Motel Connection. Sì, abbiamo... esatto, il bombolone dell'acqua ce lo portiamo da casa per sicurezza, che questa sera qui è assolutamente ingestibile. Che non si sa mai. Per cui ci sentirete in diretta più o meno dalle 7:30. Andremo avanti un'oretta e mezza. se volete farvi del male in queste pomeriggio di calura estiva assoluta. E poi, andiamo tutti a sentire appassionatamente in Motel Connection. Daniele ha già promesso di offrire un giro di tambroni a tutti i presenti. Tambroni, bevanda tipica che si può gustare al Bar Borsa, che è un bar centrale qui a Radio qui a Sandona di Piave. Daniele offre del tambroni. Signori, noi vi salutiamo. La nostra ora è giunta. The Go Find. Everybody's gonna happen. No, cosa ho detto? Everybody knows it's gonna happen. Only not tonight, ma non questa sera. I Go Find su Radio Shell 97800, Radio Sandona 102.2. Saluti da Music for Youth. Salve.